America 24 di Mario Platero. I'm Akio Toyoda of Toyota Motor Corporation. I myself, as well as Toyota, I'm not perfect. Akio Toyoda, l'amministratore delegato della Toyota da Tokyo, è venuto a Washington, ha detto: né io né la compagnia che guido siamo perfetti, un atto di scusa e di contrizione senza precedenti. Da New York, Mario Platero vi saluta, benvenuti ad America 24. Apriamo la nostra trasmissione di oggi proprio su questo impegno della Toyota, intanto a rimediare ai problemi che ci sono stati sui freni e in secondo luogo a prendersi assoluta responsabilità per l'accaduto. È questo che in sostanza ha detto Toyota davanti alla Commissione Riforme e Supervisione della Camera. Il problema è serio, naturalmente. Dalla fine del 2009 la Toyota ha richiamato oltre 8 milioni di auto in tutto il mondo, 6 milioni di queste negli Stati Uniti, per problemi dei freni ma anche per problemi di un acceleratore che accelerava improvvisamente da solo. Sembrava che ci fossero dei problemi nei controlli elettronici di questo acceleratore. Dal 2000 il governo americano ha ricevuto notizie di almeno 34 morti causati da queste accelerazioni improvvise di veicoli della Toyota, e nel giorno precedente ci sono state alcune delle vittime, alcune dei parenti delle vittime che hanno testimoniato in lacrime. Have you told NHTSA everything you know about sudden acceleration problems? Our Washington office has been always in touch with NHTSA and we are fully cooperating. Quello che avete sentito è un piccolo brano dell'interrogatorio, del confronto tra deputati americani e i vertici della Toyota. In questo caso la voce non era più di Toyota, ma era del capo della Toyota Nord America. È stato un interrogatorio duro, molto preciso, molto tagliente. Avete mai riferito certi fatti ai vostri uffici di Washington, ad esempio? Domanda il deputato in questione. Perché vi riferiamo di questa cosa? Ma perché in realtà quello a cui abbiamo assistito ieri è un fatto che forse da noi può essere compreso meno, ma è molto importante per gli Stati Uniti, perché c'è un confronto tra la cultura aperta di questo paese e la cultura invece chiusa del Giappone, che preferisce evitare questo confronto pubblico. Un'apparizione simile a questa di alti funzionari davanti a dei parlamentari è equivalente a Tokyo come un atto di straordinaria vergogna, equivalente a una ammissione di aver commesso dei crimini. Dunque il passo in avanti dei giapponesi è tanto più importante in quanto lo stesso Toyota è venuto fino a Washington per presentare la sua versione dei fatti. Ma c'è anche un aspetto simbolico importante: la Toyota, la Honda hanno conquistato il mercato dell'auto americano, lo hanno messo in ginocchio, avevano dei prodotti migliori. Abbiamo visto durante la crisi la General Motors in ginocchio, e mentre la General Motors sembrava sull'orlo del fallimento, la Toyota diventava il primo colosso dell'auto mondiale. Ecco, questi deputati che hanno poi dovuto mettere insieme dei faticosi programmi finanziari per aiutare la General Motors e poi la Chrysler, si sono accorti che in quel momento in cui faticavano per salvare i dipendenti dell'industria auto americana, la Toyota giocava un po' sporco. Anche per questo i deputati hanno voluto insistere, hanno voluto andare a fondo. La mia impressione è che da questo confronto si uscirà bene, perché il Giappone in qualche modo avrà compiuto un passo in avanti molto importante sul piano culturale, quello dell'apertura, della trasparenza. Probabilmente errori di questo genere non si ripeteranno più. Gli americani daranno delle multe, il costo di riparazione sarà molto elevato per il gruppo giapponese, ma alla fine, nel medio termine e nel contesto generale del business di questo colosso dell'auto, alla fine sarà una goccia dell'acqua, una vicenda che secondo me a questo punto si è chiusa ieri in questo drammatico contesto, in questa drammatica cornice del Congresso americano. However, starts of single family homes, which rose noticeably this past spring, have recently been roughly flat, and commercial construction is declining sharply, reflecting poor fundamentals and continued difficulty in obtaining financing. Questa invece è la voce di Ben Bernanke, giornata delle audizioni ieri a Washington. Ha parlato anche il segretario al Tesoro Geithner, ma ovviamente sul piano economico l'audizione più importante è stata quella del governatore della Federal Reserve. Nel piccolo brano che avete sentito ammette che l'economia americana continua ad essere in difficoltà, il settore immobiliare resta molto debole, l'occupazione fatica a ripartire, nelle sue stime si potrà arrivare a un tasso del 7% rispetto al 10,9,7 attuale soltanto nel 2012. E dunque, conclusione, i tassi resteranno dove sono, continueranno ad essere molto bassi per un periodo prolungato di tempo. The Federal Reserve is in the process of purchasing $1.25 trillion of agency mortgage-backed securities and about $175 billion of agency debt. We've been gradually slowing the pace of these purchases in order to promote a smooth transition in markets and anticipate that these transactions will be completed by the end of March. L'aspetto più interessante dell'audizione di Bernanke, tuttavia, ha riguardato l'exit strategy. Molti si erano preoccupati dal fatto che la Fed avesse deciso di alzare il tasso di sconto la settimana scorsa. Ebbene, non è quello il vero problema. Il vero problema ci sarà quando la Fed comincerà a drenare $1,000 miliardi dal mercato e quando alla fine di marzo cesserà di acquistare strumenti immobiliari, strumenti garantiti da mutui immobiliari. Ne aveva acquistati o ne avrà acquistati per la fine di marzo 1.250 miliardi. Non li acquisterà più, preoccupazione sul mercato, cosa succederà? Saliranno forse i tassi di interesse? Bernanke ha voluto rassicurare, non saliranno i tassi di interesse perché anche questa operazione per aggiungere liquidità al mercato ormai è completata e soprattutto si cesserà di acquistare, è vero, ma non si venderanno le attività patrimoniali che sono attualmente in portafoglio e questo dunque garantirà stabilità. Infine vi anticipo un dibattito importantissimo che comincerà invece oggi fra un paio d'ore alla Blair House davanti alla Casa Bianca. Barack Obama si incontrerà con i repubblicani, con i suoi compagni democratici per discutere di sanità. La mia impressione è che alla fine sarà soprattutto un gioco delle parti. Veniamo invece a una notizia che riguarda un italiano celebre in America. Sam Ramney, che interpreta Mentre gonfiarsi l'anima, una delle arie più importanti della storia dell'opera, tratta dall'Attila di Giuseppe Verdi, che ha debuttato al Metropolitan. Non c'era mai stata una rappresentazione di quest'opera del grande compositore italiano, un'opera composta nel 1846 in pieno Risorgimento. Il direttore era Riccardo Muti, anche per lui è stato un debutto all'opera del Metropolitan, un debutto accolto bene. La sua direzione è stata apprezzata dal New York Times, ci sono già le critiche, devo dire molto positive. Ricordiamolo, Muti a partire dalla stagione 2010 e 2011 andrà a dirigere la Chicago Symphony Orchestra, quindi resterà in America. Invece ci sono stati commenti meno positivi per altri aspetti di questo allestimento. Intanto per i costumi, di nuovo italiani, costumi di Miuccia Prada, e per le scene di Jacques Herzog e Pierre de Meuron, la coppia di architetti svizzeri che hanno ideato il Nido, il famoso stadio olimpico di Pechino. E l'Associated Press è stata forse la più perfida. Attila è una pietra miliare nella storia del Met, ma è meglio seguirlo con orecchie spalancate, un apprezzamento dunque per Muti, ed occhi chiusi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno con cui ci lasceremo. Jennifer Lopez ha rotto il contratto con la Sony dopo 10 anni di relazione e milioni di dischi venduti. Cosa è successo? Beh, l'ultimo album della cantante Brave è stato un flop. Adesso Jennifer Lopez ha un nuovo album in uscita, Love, ma ha annunciato lei stessa che sarà distribuito nell'estate con un'altra casa discografica. Ancora non abbiamo il nome, dunque dedichiamo a Jennifer Lopez